Geek Reflections. Eccoci qua, salve a tutti. Allora, finalmente siamo riusciti a stasera a registrare, registreremo la prima puntata di Geek Reflections, il mio primo podcast. Io sono Riccardo Grassi, mi avete mai sentito nuovo in questo ambiente e diciamo ho avuto, ascoltando vari podcast su consigli di amici nonché colleghi, ho deciso di mia iniziativa piano piano di cercare di farne uno tutto mio. E come ho già detto, questa è la prima puntata e vediamo quello che viene fuori. Diciamo che voglio fare un podcast facilmente accessibile, nel senso senza usare paroloni difficili, senza andare troppo nello specifico. Fare un podcast dove chiunque che l'ascolta, vista la mia esperienza, che l'ascolto il podcast sul furgone mentre vado in giro per lavoro, che anche se uno perde un attimino il filo rimane sempre in contatto con l'argomento trattato. Quindi rimaniamo sul facilmente accessibile. Diciamo che anche un'altra cosa, che podcast che non cercherò di non farlo da solo, ovviamente spero di avere sempre ospiti, più che ospiti diciamo collaboratori, che mi aiuteranno in questa piccola avventura. Quando ci saranno cercherò di farlo da solo. E stasera per la prima puntata abbiamo il mio collaboratore nonché amico conosciuto da poco, ma già mi sembra che molto feeling, il nostro caro amico Alberto Armida. Buonasera a tutti. Eccoci qua. Alberto, ce l'abbiamo fatta, dai. Dai, ce l'abbiamo fatta, nonostante un po' di disavventure di carattere organizzativo. Sì, dai, non per colpa nostra, ce l'avamo preparata tutta la serata per ieri sera, ma purtroppo è cause diciamo di rapporti di vicinato, abbiamo dovuto procrastinare la registrazione. Declinare, quindi non dipende purtroppo né da me né da Alberto, ma non potevamo, col figlio che piangeva a squarciagola non veniva bene la prima puntata. No, decisamente, come base di sottofondo non è, diciamo che non sarebbe una no, cosa non sarebbe proprio il massimo, no. Beh, allora, da che io ti ho girato come un buon podcast, che è una mini scaletta, che mi sono permesso di girarti, una mini scaletta, a una persona che già fa podcast, giusto? Giusto, sì, ormai adesso diciamo che sto tornando dietro il microfono dopo più di un anno di stop per tutta una serie di problematiche personali e lavorative. La mia idea è di ricominciare con una certa regolarità, anche a riprendere il mio podcast personale, visto che sto avendo anche più di una sollecitazione da più di una parte. Bene, bene. Per ricominciare, possibilmente mio gradito collaboratore, quando ben volentieri, sempre benvenuto, quando non si parlerà di Apple ovviamente, perché sennò altrimenti... Beh, allora, visto la scaletta, io vado, perché è il primo argomento. Ma infatti ti ho voluto chiamare apposta te per la prima per parlare di questa cosa, no? Perché in quanto ultra critico sull'argomento? Beh, sai, se troppi pareri di parte così, magari uno può davvero veramente venire una cosa troppo di parte. Quindi magari... Ah beh, certo. Pareri contrastanti. Fanno sempre bene. Certo, contrastanti. Poi io sono sempre di un'idea che se una cosa è fatta bene, che sia Apple, sia Samsung, Android, iOS, se è fatta bene, è fatta bene, basta. Ah, questo sicuramente. Quindi partiamo dal telefono che te comprerai sicuramente domani l'altro all'uscita, mi sembra il 28 in Italia. Se non so se magari sei già davanti a un Apple Store. Sì, sì, in realtà sto registrando in streaming dal mio iPhone 4S nella tenda davanti all'Apple Store. Beh, la uscita di un tanto atteso iPhone 5, non so se hai seguito un attimino... È atteso e chiacchierato, nel senso che io comunque seguo, diciamo, quelle che sono le notizie, a prescindere di cosa riguardi, a me interessa tutto quello che è tecnologia, diciamo che i rumors sulla rete in questi mesi di attesa per l'uscita dell'iOS 5 si sono, a dir poco, sprecati. iPhone 5. Si sono a dir poco sprecati, a mio avviso. Poi bisogna vedere se questi rumors, più che altro qua lo può dire un Apple consumer, però da quello che ho letto che erano le attese, a quello che ho visto che sono state poi le effettive novità implementate in iOS, in iPhone 5, perdonatemi, forse sono state un po' disattese dal mio punto di vista. Più che altro io quello che parlo per me come a te, anch'io tutta tecnologia seguo, mi informo, cerco di poi chiaro ora in questo momento avendo iPhone e avendo non da tanto comprato l'iMac, sono un pochino più verso giustamente il mondo che mi riguarda, però mi fortuna. Verso per quello quanto, che definisco il lato oscuro. Per quanto mi riguarda, io poi dirò una cosa che magari chi ascolta, speriamo qualcuno che ci ascolti, non... È chiaro che è stato cambiato poco l'iPhone 5 dal 4S. Io ho sentito tante idee, e qualcuna secondo me anche giusta, poi dopo condivisibile, nel senso, finché un prodotto funziona è inutile stravolgerlo completamente. Secondo sì, nel senso, io personalmente, il vecchio adagio, squadra che vince non si cambia. Certo, per quanto mi riguarda personalmente io mi sarei aspettato, avrei gradito da Apple una cosa un pochino più... No, non ti dico di stravolgerlo completamente, però una cosa, proprio un device diverso. Osare un po' di più. Osare un po' di più. Sembra quasi di... Ma è stato sono stati molto, molto conservativi. Di certo. Sicuro un vantaggio che ha, e questo è innegabile, l'iPhone 5 rispetto al precedente è la maggiore leggerezza e il minor spessore. Sì, questo sì, sicuramente. Sì, io feci delle prove con un iPhone di un collega a metterlo nel taschino della giacca. Chi come me fa il mio lavoro è sempre perennemente giacca e cravatta, quindi il cellulare lo tiene nella giacca nella tasca della giacca, perdonatemi, e il rendere più sottile l'iPhone non fa nient'altro che rendere più agevole portarsi dietro il telefono. Stesso discorso valga per la leggerezza. Sì, infatti dal 4S da 140 che era il 4S è diventato 112. Ora non sembra, ma 28 grammi di differenza, tanti, se li hai in una giacca li senti parecchio. E poi sono tanti in un dispositivo di dimensioni di queste, diciamo, piccole, per un, nel senso, non come piccole come... Beh certo, comunque sia le dimensioni sono ridotte, per cui anche il margine di riduzione è decisamente... limitato. Adesso, facendo una botta di conti rapida, siamo nell'intorno del 20%. Sì. Con una riduzione del 20%. Anche più sottile del 20%. No, è anche più leggero, perché se fai il rapporto 140 su 112 siamo nell'ordine del 20% come rapporto di riduzione del peso, quindi non da poco. Questo è un vantaggio sicuramente innegabile. Dal mio punto di vista, uno svantaggio dell'iPhone 5 è il fatto che è in 16 noni. Anche qui, ti ripeto, poi andrebbe visto e toccato con mano e visto. Io, quando, tanto per saltare di palo in frasco, quando l'S3 dissi che era un po' grande, effettivamente è grande, però quando lo provi il display è veramente esagerato. Qui non è una questione, no, forse però, no, nel senso, però io il 16 noni, anch'io non andrebbe visto, sinceramente. Non so però se il 16 noni può essere un pro o un contro. Secondo me, per quanto mi riguarda, è più un contro, secondo sì, me. Sì, sicuramente, anche perché il problema non è tanto nelle dimensioni in sé, ma è nel rapporto tra le dimensioni. Ora, senza voler essere... È rimasto, se non mi sbaglio, è rimasto il solito di, diciamo, larghezza, però è stato allungato. Poi esatto, andati. Il problema qual è? Che effettuando questa operazione, io ho fatto alcuni conti, raffrontando quelle che erano le dimensioni degli iPhone precedenti con quello dell'iPhone attuale. Gli iPhone precedenti, a mio avviso giustamente, seguivano il rapporto di proporzione aurea, cioè phi, che è una costante sulla quale siamo, tra virgolette, progettati anche noi esseri umani. Tutto in natura tende a phi. Quindi avere un terminale che ha come rapporto tra altezza e larghezza questa costante naturale diventa, diciamo, facilmente maneggiabile. Nell'istante in cui viene messo all'interno della nostra mano un qualcosa che non risponde a questa costante naturale, diventa di difficile gestione. Poi diventa proprio difficile tenerlo in mano. Poi parliamoci chiaro, è sempre stato quella 4 pollici, non è mai stato, quindi il classico utente Apple che ha avuto 2G, 3G, 3GS, 4, esatto. 4S può tornare molto innaturale avere un display. Sì, sì, ma anche proprio... che sia leggermente più lungo. Ma io ho già letto la battuta su internet che dicevano che la Apple ha fatto il display a 4 pollici in iOS 5, quindi allungandolo, perché così almeno si riesce a vedere la posizione del Milan in classifica senza scrollare. Intanto stasera si è vinto e qui chiudiamo. Adesso a parte le battute, Sì, no, il display più grande. anche se leggendo, tanto faccio nomi, quindi non è che c'è pubblicità, su iPhone Italia le recensioni, le prove che ha fatto Andrea Cervone, che seguo anche su Twitter, che è molto preciso, dice che non è proprio, non è scomodo, anzi, dice che sia abbastanza comodo, come più che altro il fatto di essere più sottile e più leggero rende ancora più, non rende, diciamo, difficoltoso portare il classico pollice in cima all'icone. Essendo più sottile. Qui poi chiaramente bisognerà vedere, bisogna, adesso se potrò magari dire quella che può sembrare una banalità, ma bisogna vedere le dimensioni delle mani di questa Ovvio, persona. ovvio, ovvio, ovvio. Se lo Perché diamo in mano a mia figlia di 5 anni, è chiaro che. esatto, ma senza arrivare a tua figlia di 5 anni, che mi auguro che non abbia già un iPhone, No, anche solo a assolutamente. un ragazzino di 12-13, che poi alla fine della fiera, parliamoci chiaro, è gran parte di quella che può essere l'utenza Apple, non so se ce la fa. Senza doverlo far scorrere in mano o senza dover assumere posizioni delle mani di fachirica memoria. Quando arriverà con calma, perché dovrebbe uscire se non sbaglio il 28, Il 28 in il Italia, sì. 28, qui allora non so, quelli dati da qui c'è l'Apple Store ai Gigli, Prato, quindi a mezz'ora da casa mia, ma non mi penso assolutamente di andare a fare, a parte non, per non lo compro, però non pensi neanche a fare la fila per andarlo a vedere. No, certo, no, io ho già visto. Magari ci farò una Le capatina fra prenotazioni, io 2 settimane. lavoro in centro a Milano, ci sono un paio di negozi di Apple Store lì vicino e so già di gente che lo ha già preordinato da settimane. Eh sì, sì. Comunque, se vai ben visto, ma anche la scheda, le caratteristiche sono, diciamo, parliamoci chiaro, sono sorprendenti, comunque a livello hardware. Le caratteristiche a Perché? livello hardware? Nulla da dire, sono di tutto Oh, rispetto, intanto, forse addirittura sovrabbondanti per un cellulare alla fine. intanto al primo, dovrebbe essere, io essendo il primo, la prima puntata, spero di non dire castronerie, ma dovrebbe essere il primo iPhone con la CPU Made in Cupertino direttamente, la Apple A6 proprio direttamente costruita da Apple, Mi insomma. pare di sì. Sì, anche io avevo letto qualcosa di simile. Poi Non un giga di ci RAM, tre metterei la core, mano sul fuoco. un giga di RAM, 3 core grafici, insomma, viene fuori un bel Sì, ma SoCino. addirittura, torno a ripetere, forse è sovrabbondante per quello che è l'uso di un cellulare. Una dotazione di questo tipo la vedo di più su un tablet da 7 pollici, per intenderci, sul quale puoi anche giocare in modo un po' più agevole. Ma sai, come dicono in tanti, ora sembra che la legge che vada per la maggiore sia io ce l'ho più lungo e io ho un giga di RAM e io ho un giga e mezzo, io cioè, senza poi Sì, è un precisare po' la dal rincorsa vero che c'è poi stata negli utilizzo, anni capito? 90 nelle dotazioni di RAM e del clock dei processori. Sì, sembra qua, io ce Siamo. l'ho, bravo, una volta quando c'era il classico 486, ti ricordi, Certo. se c'era La domanda classica era: ma il tuo quanti mega bravo, è? bravo. Bravissimo, ma quanti Quanti mega megahertz è? funziona, Quanto hai di capito? RAM? Era proprio la domanda Sì, classica. la RAM è quello lì. Adesso è scesa molto in disuso sui computer questa cosa qua. Per contro ci si domanda, ma quanti core ha? 2, 4? Sì, oppure il telefono, il classico, il device, quant'è la fotocamera? E qui, anche qui, sì, Esatto. l'8 megapixel, io ho visto sempre le Sì, foto su di iPhone tutto Italia, rispetto. le differenze, cioè io vedo le foto fatte col mio 4S. Sono veramente belle. E visto il paragone del 4S e quello col 5, sono ancora superiori rispetto al 4, al 4S. Ovviamente, Quindi. certo. Anche se comunque, torno a ripetere, non vedo come su un telefono ci sia la necessità. Io sono molto molto conservativo in questo senso di una fotocamera da 8 megapixel. Se devo fare delle foto, ho la mia macchina fotografica digitale. Cioè, in questo Ecco, senso io vedi. sono un talebano, cioè Qui, sono. no, qui mi trovo in disaccordo, perché anch'io ero come te, però ora o hai una reflex, allora sì, però se io devo avere una compattina, oppure diciamo una semiprofessionale, non mi viene in mente il nome, come si chiamano, che io ce l'ho, fra l'altro, penso che non mi ricordo come si chiamano, cioè se devo avere poi alla fine la solita risoluzione, nel senso che non posso fare grandi impostazioni come una reflex, conviene allora avere un telefono dietro con 8 megapixel di fotocamera. Certo, se c'è una reflex da 10 megapixel, 15, 18, 20, con tutte le impostazioni, la focale, eccetera, allora non c'è neanche paragone. Però Beh, chiaro, sono anche proprio perché due oggi, parliamoci prodotti chiaro, completamente diversi. oggi chiunque fotografa qualsiasi cosa, c'è cioè un incidente, Vabbè, sì. qualsiasi cosa, uno tira fuori il telefono, la foto. Sì, basta vedere il successo di Instagram, la dice lunga. Molto, molto grande successo, e noi abbiamo un amico in comune che grandissimo estimatore Di Instagram, di Instagram. esatto. Tanto poi ha detto che farà il beta test per la prima puntata, quindi Ah, fantastico. il E tu nostro amico. pensa, qua penso che molti si stupiranno. Io non ho un account Instagram. Ecco, qui finiamo la puntata. È stato penso che tu sia l'unico. Io non ho un account Instagram, Sai nonostante io che sia un addicted di tecnologia, non ho un account Instagram. tanto ormai lo possiamo nominare, non ci credere. Sai che Marco potrebbe depennarti direttamente da. Lo sa, lo sa, lo Lo sa, lo sa sa e non ti ha già e ancora. non perde occasione per pungolarmi su questa Eh cosa, sì, lui era un estimatore. spingendomi Anche quando non era su Android, se le trovava da solo, se le faceva. È un grande su queste cose. Salutiamo Sì, Marco, che magari ci sicuramente. Ciao ascolterà mentre va in Marco. giro col pandino. Giustamente, magari si ascolta mentre sta andando a lavorare o è imbottigliato nel traffico, Eh così sì. magari gli si fa un po' di compagnia. Stasera ti metto proprio alla prova. E visto che il 28 esce, quindi ci sarà le notti bianche, le classiche attese, cosa ne pensi di queste attese, di Vuoi queste. la Ora, risposta non sincera o vuoi la risposta aspetta, politically no. correct? Aspetta. Non diciamo chi fa le file per lavoro, nel senso che poi il telefono prenderà per beta test per fare delle prove. Chi fa le file per comprarlo proprio a livello proprio personale, non chi scrive o chi fa un blog, chi proprio se lo No, porta a quindi casa e sta lì magari, l'end user. bravo, 3 giorni prima, Che cosa non. ne pensi? Ovviamente cose che si possono dire, che nessuno si offenda, Esatto, no, beh, chiaramente adesso eh. la mia e quella di prima era una battuta. Beh, io per dire, guarda, premetto te lo dico prima io, guarda, Vai. io non sono un tipo che sinceramente, ma non è che lo farei per l'iPhone, non lo farei proprio nel senso per nessuna cosa, proprio non sono il tipo. Però, sinceramente, rivedendo, perché ho seguito tanto per quella la diretta, diciamo, di non chiamarla diretta, sì, di iPhone Italia, che erano a Parigi, e sinceramente vedo, non è una cosa così malvagia, è una cosa molto aggregante fra utenti che hanno una solita passione, perché alla fine fai la fila per una passione. Come, qui te la butto là, non offendere neanche me, come quando poi uno fa la fila, per esempio, in un concerto, c'è gente che va la sera prima o il giorno prima, la fila, la posta davanti, perché dice così, lo vedo. E magari lì è una passione da avere, sono il primo che sono entrato, ero il primo e per una volta nella vita l'ho fatto. Ma io non lo Ora, qui sono due metterei. paragoni un po', Sì, è decisamente estremi. Certo, azzardato ed estremo come paragone, perché non si può paragonare un concerto, cioè la fruizione di un'opera d'arte, io con. intendevo come concerto, come passione in sé. Sì, certo, come passione. Ma sinceramente non. Fatico davvero a concepire. Vuoi che tu, ben sai, io sono una persona estremamente pragmatica, quindi fatico davvero a concepire come si possa passare giorni in fila davanti a un negozio per spendere dei soldi, fondamentalmente. Qui non è un discorso di fattori aggreganti, qui è un discorso che io sto comprando un bene e non è che se sono tra i primi 200, 300, 1000, 1 milione a comprarlo ho dei benefit, allora potrei capirlo. Beh, Ma sai, Ellie. l'iPhone 5 comprato un mese dopo, una settimana dopo, o il giorno dopo l'uscita è esattamente identico a quello Beh, comprato sai, al day one. lo Quindi, sfogo però di averlo prima, magari può essere comunque una passione. Poi ripeto, sì, io non lo farei mai. ma è un come si può dire? È una soddisfazione che ti dura quanto? 3 giorni? Poi scompare, perché ce ne saranno in Sì, beh. giro n mila miliardi. Sì, però secondo me più che una passione durata di giorni, una passione che dura un anno a quell'altro, perché sicuramente secondo me chi fa la fila di 2 o 3 giorni l'anno scorso l'ha fatta per il 4S e l'anno prima l'ha Ah, fatta per il molto 4. probabile, certo. Però in Quindi è questo caso è recidivia, come cosa. quasi una ricorrenza, secondo me, cioè una cosa da. Sì, Rivista anch'io all'inizio sembrava una cosa, io però poi sinceramente. rivista in chiave di appassionato, non io, nel senso sì, di appassionato di un marchio, che sia Apple, che sia Samsung, che sia quello che ti pare, non la Certo. vedo poi una cosa così poi assurda. No, per carità, può essere, come giustamente dici anche tu, un momento di interazione, di aggregazione tra gli utenti, al di là del fatto che parlo da frequentatore di alcuni lag, parlo da musicista, podcaster, ma insomma ho varie attività che mi comportano l'interazione con altre persone e personalmente il momento aggregante piuttosto che fuori al freddo, sotto l'acqua, in piedi o in una tenda davanti a un negozio, preferisco farlo in pizzeria davanti a una birra. Cioè, il Sì, no, momento vabbè, ma che lì si aggregante. unisce secondo me l'utile al dilettevole, diciamola così, Sì, proprio. io personalmente non è una cosa No, che non la farei farei neanch'io, sinceramente. per nessun motivo al mondo. L'unico momento nella mia vita in cui ho fatto una fila e ero seccato per aver fatto 20 minuti di fila è stato quando sono andato al concerto di Jet Total, ma stiamo parlando di un'altra cosa Eh no, completamente. io poi ripeto, io non è una cosa che non farei mai, ma non per quello, e non farei mai, non è proprio nella mia indole fare queste cose, proprio No, assolutamente, assolutamente. non Poi per carità di esisterei. linea, cioè, mi fa piacere che qualcuno possa trovare, diciamo, piacere, mi si passa il gioco di parole, Sì. nell'avere per primo l'iPhone piuttosto che essere il primo che è entrato nel negozio. Però, dal mio personalissimo punto di vista, lo trovo una cosa. Non dico infantile perché non è infantile. Vabbè, se si può paragonare come quando uno si fa fare un autografo, alla fine poi una firma su un foglio, poi ti rimani lì, arrivederci, grazie. Esatto, infatti io non ho un autografo che uno perché non ho mai concepito l'utilità. Sei troppo critico. Io sono estremamente critico, lo sapevi? Io critico L'ho chiamato qualsiasi apposta. cosa. Ma io, come ben sai, sono critico allo stesso modo verso Ma è giusto, Android e io giusto, è sono un giusto utente così. Android, cioè sono estremamente critico verso qualsiasi cosa. Quindi È giusto così. mi piace avere un occhio critico verso tutto perché altrimenti ci si fa trascinare dal marketing, ci si fa trascinare dalle mode ed è una cosa che personalmente non mi piace. Una cosa che ricollegami prima all'uscita dell'iPhone che mi ero dimenticato, è la prima volta, la prima puntata, quindi magari devo un attimino riassettare. La cosa che dicevi te dei rumor, ecco, questo mi ha un po' colpito, sinceramente, che quando hanno presentato l'iPhone 5, non l'hanno presentato, non mi ricordo, era il 20, non mi ricordo quando era, quando il keynote di La presentazione, è data stato, non me la ricordo. se la trovi al volo te, è stata presentato 6 mesi prima, 7 mesi prima, 8 mesi prima, con tutti, cioè addirittura avevano 12 fatto, settembre. avevano fatto, cioè era praticamente, l'avano già presentato con Sì, i perché vari, cioè praticamente io non, tanti rumors io sono trapelate quelle che sono tutte ecco, le novità. questo io non concepisco, cioè un'azienda come, Ma è voluta come cosa? come Apple, cioè anch'io sono di quell'idea lì, però ora voluta, magari fino a, cioè questo praticamente non credo neanche lo presentassero, quello era, lo sapevano già. Ma è voluta perché hanno voluto creare un hype intorno al prodotto. Come quando fu del 4, mi sembra che se lo dimenticarono lì, secondo me è tutto voluto. Ora, figuriamoci. Dimenticarono ovviamente, per chi ci ascolta non può saperlo, ma è tra virgolette, perché non si può dimenticare un prototipo sperimentale Assolutamente. di un prodotto come l'iPhone in dove che l'aveva dimenticato, in un bar, a una Sì, in un mensa. bar che l'aveva portato dietro per facciamo un test, Non ci mi sembra una cosa credo, assurda. È non ci come di credo lascia. nemmeno se me lo mette per Bravo, iscritto. la vedo più una cosa, quindi lascialo lì e vediamo poi tanto su internet i vari Esatto, commenti, servono se per può creare essere, se hype, può questo è andare o non può marketing allo andare. stato puro, no? Cioè, lo potremmo definire marketing 2.0, nel senso Sì. Però che crei la necessità fondamentalmente. anche di questo io avrei preferito più piccole indicazioni, cioè le ultime che vendevano addirittura il kit per trasformare, cioè proprio il kit era identico a come era stato fatto. Vabbè. Sì, tu avresti preferito un rilascio Ma qualche diciamo informazione. discreto, sì, Bravo, tanto qualche per informazione, tutti creare. quando è oh, cioè, e qui era un no, come dire, ah, che Sì, diciamo che il keynote non è stato nient'altro che una conferma e un presentare in bella forma quelli che bravo. erano i rumors che pian pianino sono stati lasciati trapelare sul web. Sì, esattamente. Sì, concordo, nel senso che. Ma comunque ripeto, è chiaramente una manovra voluta, una manovra di Ma mercato. Anche a senz'altro, mio avviso, perché forse stavolta hanno esagerato un pochino, perché poi alla fine della fiera, al keynote, di nuovo non c'era niente. eh no, c'erano gli iPod, mi Sì, il nano, sembra i Nano, che ho letto delle sono, critiche come feroci tanto, sulla sono Lumia. i Lumia praticamente, Esatto, ho letto delle critiche veramente feroci sono sulla Lumia. uguali praticamente. Ma una cosa che secondo me molti utenti hanno ragione è che l'iPod Nano come fattore forma, come idea, come concetto, andava bene così. Non andava assolutamente toccato, anche perché molti utenti cosa facevano? Lo trasformavano in un orologio. Eh beh, sì. Con quello nuovo la cosa non è più Non lo fattibile. fai più. Però Io ho lì, guarda, da veramente. Android user, ho, non dirò la marca perché non voglio fare pubblicità, ma ho un orologio che si collega tramite Bluetooth ai terminali Android. E devo ammettere che è comodissimo per chi come me si muove con i mezzi pubblici ed è in metropolitana in piedi con una mano attaccata, abbinato a un auricolare Bluetooth, ti cambia veramente il modo di interagire col telefono in Beh, mobilità, tra virgolette, senz'altro. estrema, cioè in una scatola di sardine che le Ferrovie dello Stato chiamano treno. Sì. Beh, senz'altro, che tanto oggi si va verso l'interattività totale comunque. Mentre invece quello che ha fatto Apple è stato proprio per quanto riguarda l'iPod Nano, uno stravolgere la natura stessa di quello che era l'oggetto e l'uso che gli utenti ne facevano. L'hanno stravolto completamente. Infatti ho letto delle critiche veramente feroci Sì. sul nuovo iPod Nano. Ci sono qualche critica feroce, c'è anche sul nuovo iPhone, l'iPhone 5, se non so se hai visto, sicuramente hai letto E su in quale giro dei i tanti vari problemini, che ah, ok. veri, non veri, da smentire, da testare, chi gli è successo, a chi no, anche qui tutto è poi da verificare. Per dire, quello che gira per la maggiore è che si righi facilmente, sul web gira le foto di cui non mi ricordo. Su che sito avevo visto che due utenti è preso appena preso, tirato fuori dalla scatola, e c'erano due belle rigate. Su quello bianco, se, su quello nero si vedeva proprio delle Beh, rigate in su quello bianco, nero si per vede per carità. Certo, definizione, è un po' come quando si compra l'automobile nera, si sa che è delicata. per carità, parliamoci chiaro, è un prodotto che costa una certa cifra, è un prodotto che è, ma viene fatto in serie, ne vengono fatte decine di migliaia, di più, di milioni. Sì, ma questo Quindi, non è sai, una ci può giustificazione. essere. No, però ci può stare il problema che mi preoccupa di più è il fatto che si righi successivamente. Esatto. Perché il dietro del mio, io ho un 4S, è vetro con la melina dietro. Io ti parlo anche a livello estetico. La melina dietro, io ho una classica cover con dietro il buchino per far vedere la mela. Certo. L'iPhone 5 dietro è molto bello. Però, e lo devi lasciare, secondo me, scoperto, perché sennò è inutile coprire quando è stato Certo, fatto però se è il. così delicato è Bravo, io lo decisamente poggio, prono. bravo, mi rimane rigato il dietro, se non sbaglio dovrebbe essere metallo brunito dietro, che quando Sì, viene la è colorazione una del. lega di Quando. alluminio, mi Sì, pare. una lega alluminio, viene detto metallo brunito, quando viene una colorazione, in questo caso mi era un colore grigio dietro il Sì, è un nero. grigio antracite, mi pare. Bravo, sì, c'era un nome, non mi ricordo come. Sì, l'ho visto, non mi sono soffermato su quello che è la Sì, denominazione del e colore. sul sito che iFixit, quelli che comprano qualsiasi cosa la distruggono per Li testarla, adoro quei ragazzi. fa vedere che veramente si fanno delle prove col 4S, con l'iPhone 5, e dietro si riga facilmente. Poi, più che altro sui lati, sembra quasi Sì. proprio Gli sui angoli lati, ho che letto che sì, il punto veramente viene critico proprio sono via, gli angoli. sì. E se Ma così fosse, come io criticai prima un bloghettino, che l'S3, che aprivi dietro e si spaccavano diciamo, i gancettini di plastica che tenevano Certo. la cover dietro, fosse veramente così che si graffia, io non penso che uno compri la e lo prova a graffiarlo, perché. No, ma di Però si lo certo non poggio è e mi un si graffia. discorso, Sì, esatto, cioè, di certo non è un'operazione che l'utente finale farà in modo intenzionale, ma nella vita quotidiana ci può stare. Metti che, certo. torno all'esempio di prima, io tengo il telefono nella tasca interna a sinistra della giacca, che è la stessa tasca dove tengo la penna. Se avessi un iPhone, avrei di sicuro un lato dell'iPhone completamente rigato, perché ho all'interno la penna. Perché Io poi. ho un cellulare Android pagato tra l'altro 3 lire perché non sono uno di quelli che si adesso molti sapendo che magari mi conoscono e sapendo il lavoro che faccio si aspettano che io abbia cellulari da 6, 7, 800 euro. No, il mio cellulare costa 150 euro e va benissimo ed è a prova di bomba nel senso che io ce l'ho già da un anno e mezzo e non ha una righina che una. No, anche E perché se da un io. telefono, scusami, da un Dimmi. telefono come l'iPhone. Che costa, ho letto delle cifre da vado a vendere un 729, rene per 729 il 16. il 16 729, avevo letto 7,95 Se forse non per il dico. 64, qualcosa del genere. te lo dico subito. No, avevo letto una cifra molto molto alta, mi aveva stupito. Poi anche qua sul discorso prezzi si potrebbe aprire un capitolo a parte. Lasciamo perdere. Allora, si dice prezzi presi da iPhone Italia, che è una cosa. Il 16, per il 64 prezzi ufficiali team per l'iPhone 5, sì. 16, 7, 29, 32, 8, 39, 64, 9, 59. 959 euro, cioè detta in soldoni 1000 euro per un telefono e che mi si graffia. Cioè, se io compro un telefono da 1000 euro devo poterci passare sopra con, con la macchina e mi deve bucare le gomme della macchina. Sì. Anche per un perché telefono che costa 1000 euro. Anche perché compra l'iPhone, parliamoci chiaro, anche esteticamente è bello da vedersi. Se io lo devo mettere il bumper, il coso, e lo chiudo e lo copro e il tappino sotto, è finita il bello. Cioè, anche a me piacerebbe tenerlo. È assolutamente apprezzabile, però se dal punto di vista della qualità costruttiva, perché qui di qualità costruttiva trattasi, non sono in grado di dare determinate garanzie. Poi non mi si venga a dire che il discorso... Ripeto, anche questi sono rumors, sono test fatti. Ma io ho visto delle foto, quindi... Sì, iFixit l'ha provato, poi ripeto... Quindi rumors fino a un certo punto, nel senso che se mi è bastato andare su con una chiave, se io domani sera arrivo a casa, inciampo, mi cascano le chiavi sull'iPhone, me lo riga, certo. Bisogna sempre ponderare l'imponderabile. Bravo. Sì, a me quel davanti no, perché ma quel gris, perché il solito dovrebbe essere... Sì, davanti non è stato modificato, è stata modificata la retroscopica. Il dietro lo vedo un po' delicato, bello ma delicato. E poi, apro una parentesi, tu lo sai sicuramente, magari chi ci ascolta, qualcuno sì, qualcuno no. Io sono appassionato di modellismo, perché lo dico? Il discorso del metallo brunito, che è stato usato come giustificazione, tra virgolette, per la delicatezza, non regge perché ci sono in commercio nel settore del modellismo delle resine trasparenti che servono proprio, che vanno date proprio sulle componenti in metallo dei modellini per evitare che si graffino. Sì. E il costo all'utente finale è di pochi euro al litro. Ora, se io sono Apple e devo dare su una mano di questa roba all'iPhone 5, il costo è ridicolo, per cui qua mi dà proprio la sensazione di un errore di progettazione, più che un errore una dimenticanza di progettazione. Possibile, magari verrà risolto in corsa, magari. E come fai a risolverlo in corsa sul venduto? No, è sul venduto, no, è sul venduto il classico perfezione dell'assistenza Apple, che come sai, beh, questo non c'è niente da dire, si riga, mi dai il telefono, te lo cambio e arrivederci, grazie. A me sono concesso che la vorranno mai fare una cosa del genere. Ma se succedesse, ora certo, se succede a 1000 telefoni venduti, succede a 2, a 3, no. Ma se su 1000 comincia a succedere a 2, 300, io sono convinto che una ditta come Apple non si sputtani per una cosa del genere. Mi auguro di no. Capito? Cioè ci rimette meno a cambiare e ci fa più bella figura dicendo. Certo. Così che dire no, non te lo cambio. Certo. Anche se... dicono che gli schermi, se si guasta gli schermi, vengono, prima venivano cambiato direttamente il terminale, ora viene sistemato direttamente in loco. Scusami, sostituito lo schermo? Sì. Ma da una parte è un bene, dall'altra un male, secondo me. Nel senso che un bene perché di sicuro cambiandolo in loco, cioè sostituendo lo schermo in loco, tendenzialmente da un punto di vista squisitamente teorico dovrebbero abbassarsi i tempi. Sì. Perché io, se ben ricordo, tu dovevi portare il tuo terminale in Apple e poi dopo che tu lo avevi portato facevano la richiesta di un nuovo terminale, ma dovevano espressamente fare la richiesta e aspettare che arrivasse. Sì. Questo mi par di ricordare perché un amico che l'aveva sostituito. Dice, Apple sostituirà i terminali rotti degli iPhone 5 e non provvederà a fornire un altro terminale. Da una parte è un male perché se... A differenza di quanto ne ha per 4 e 4S. Esatto. D'altra parte è un male però dal mio punto di vista perché se il problema giustificato da Apple sta sul display ma in realtà è generato ad esempio da un problema in vento, da un problema di surriscaldamento o da altro... potrebbe cominciare quel fastidiosissimo ping pong avanti e indietro, per cui dopo tot di tempo ti si ripropone il problema. La giustificazione, chiama così, la spiegazione di Apple è che dice che il nuovo design unibody dell'iPhone 5 rende il pannello facilmente sostituibile. Sì. Qui staremo a vedere, diciamo, già solo il fatto che abbiano cambiato il design con la facilità di sostituire il pannello mi fa pensare che si aspettino un aumento del numero delle rotture. Io sono malizioso per definizione. Ma Se io rendo semplice la sostituzione di un pezzo o il cambiamento di un pezzo di qualcosa è perché la sua magari ha rottura messo in è normale. chiaro dicendo ancora che, anzi, potrebbe essere, vedi, potrebbe anche essere visto da un punto di vista, nel senso, io non c'è problemi, ma me lo dai, tazzo, sostituisco il pannello, lo riprende, arrivederci, siamo a posto. Appunto, proprio perché probabilmente si aspettano delle rotture sul pannello. No, magari vogliono agevolare, tranquillizzare il cliente senza attese, senza invii, vieni direttamente, senza che tu me lo invii oppure lo verifichi, e ti vieni direttamente all'Apple Store e si cambia direttamente. Poi, sai, poi va Essere visto un'opzione. tutto, certo. Ricordiamoci sempre che io sono il malizioso e il maligno, per Certo, cui vabbè, ci io sono vuole, vabbè, ci diventato vuole, cattivo in questa se cosa. no tutto. Per questo io voglio fare il podcast in due, tre, perché se no se uno parla da solo si ha sempre ragione. Sicuramente, certo, sicuramente. E poi così, sempre tanto per continuare a fare il poliziotto cattivo, non so se tu hai avuto modo di leggerli o sì, di parecchie persone che hanno lamentato problemi sul wifi. Ah, No, perfetto. no, Non sull'iPhone so. 5 no. Io ti posso dire poi questa cosa l'affronteremo in un'altra puntata iOS 6. Io installando, facendo l'aggiornamento, ho trovato di qualche problemino. Ovviamente mia moglie col 3GS assolutamente nessun tipo di problema. Io con il 4S mi sono trovato qualche problema su wifi, nel senso che io per dire arrivo a casa ora, l'iPhone quando te lo blocchi va in 3G. Io magari ora è qui in un momento e non si ricollega direttamente alla rete wifi. Questo Questo è male. è un problema che ho trovato io personalmente, poi non so se È lo stesso problema che ho letto io, così come ho letto in altri casi, forse ancora più estremi, per cui l'iPhone rifiuta proprio la rete sì, wifi. ho letto anche di quello, ora Non non si so se. collega a reti wifi, non si è ancora capito bene, o quantomeno non sono trapelate ancora quelle che sono le motivazioni, sicuramente di carattere tecnico, per cui determinate reti wifi vengono proprio o non viste. Non so se dipende dalla WPA, la WPA2, se magari ancora qualche bug non riesce poi Probabilmente a qualche bug non decodificarla. riesce. Sì, ma sembra essere addirittura un discorso più che legato alla WPA, alla WPA2, legato proprio all'implementazione del protocollo da parte dell'access point wifi. Quindi Però qui peggio parliamo di ancora. iOS 6 o di iPhone 5. Perché qui bisogna vedere, perché quello che dici te è che io presumo che tu prima ti riferissi al fatto che l'iPhone 5 ha avuto dei problemi di collegamento su Wi-Fi. Sì. Non vorrei che sia, perché anche qui Apple ha detto che è un può darsi che sia un problema software. Visto, all'inizio sembrerebbe strano, sì, problema software è facile dire una cosa del genere. Magari può essere l'antenna Wi-Fi È dell'iPhone. quella è la mia, tra virgolette, preoccupazione. Però, visto che questo problema sui vari forum si è verificato anche a diversi 4S e a diversi 4, potrebbe veramente essere un problema software. Magari di Potrebbe anche iOS essere un 6 problema proprio. software. Ricordiamoci che però l'antenna gate non è una cosa così No, indietro no, no, nel tempo. assolutamente, però essendo che si verifica su due dispositivi diversi, quasi È forse più probabile che sia un sia un problema problema software, sì. software. È più probabile, forse. Non certo, però. No, cioè, beh, certo non sarà mai. No, fin tanto che non rilasceranno le specifiche Sì, esatte del chiaro, chiaro. problema, o il bug fix o le istruzioni per un qualche workaround, insomma, mettiamolo Certo, così. un altro problema, ora qui tanto l'iPhone 5 ormai abbiamo detto abbastanza, che si è riparlato, hanno parlato anche in tanti, visto che mi hai detto del problema del wifi, ti dico che all'inizio, ora si è un pochino stabilizzato, e secondo me ti do anche la mia magari sbagliata teoria, io ho avuto dei problemi di batteria, nel senso i primi tempi, a parte che avevo installato la Golden Master, diciamo l'ultima release prima della versione ufficiale, installato la versione ufficiale di iOS 6, cominciata la batteria veramente se la mangiava. Sì. Ora non so se era il problema di prima Siri era disattivato, arrivederci, grazie. Adesso è il bel. Cioè, Siri, adesso che in italiano è un anno che io, come tanti presumo, l'aspettano, e ora Siri è sempre Certo. attivato, quindi la localizzazione è sempre attivata perché parla, diciamo, fra virgolette, con i server. Guarda, Però io, io secondo. Ora sì. si è un po' stabilizzata, però consuma sempre rispetto Esatto, al io ho 5.1. avuto una chiacchierata l'altra sera con un amico che ha fatto la stessa identica operazione, quindi mettendo il 6, iOS 6 sull'iPhone 4S, anche lui lamenta cali della durata della batteria molto sensibili. Il discorso di Siri e 3G, io Io ti dico. dalle informazioni che ho avuto tendo ad escluderlo perché lui Siri non lo usa, quindi Male perché è divertentissimo. Prima sì, ma è te l'ho un fatto sentire come è divertente. sì, sì, però calcola che questa persona penso per come lo conosco io è già tanto che riesce a usare il telefono. Beh. È un letterato, per cui lui è già buono che non è fermo ai piccioni viaggiatori. Quindi so già Quindi non ci ascolterà che mai. Mattia mi odierà per questo. No, Non no, ci ti ascolterà ascolto. mai tanto. No, no, ci ascolterà Ah. perché gliel'ho detto e di sicuro mi toccherà pagargli almeno una birra per farmi Beh. perdonare. Io però vorrei. Sono un po' contro la teoria che hai detto. Perché io ti dico che tra i minimi test che ho fatto io, ma non test voluti, test a caso. Certo. Che poi sono i migliori perché è l'uso quotidiano. Io esco al lavoro e ho sempre il 3G acceso, ovviamente sempre attivo, perché mail, varie, eccetera, Chiaro. Twitter, Facebook, eccetera. Io arrivo alla sera con un 40-39 e già non è male, sinceramente. No, Se non però male. io, tipo sabato e domenica, io sto a casa, mi muovo di casa e sta tutto il giorno collegata al wifi, quindi non sta mai a fare a collegarsi con 3G, e l'altro giorno l'ho preso, non mi ricordo, alle 8 la sera, al 75%, cioè una cosa clamorosa. Questo che dico, secondo me, o una cosa, o i vari gestori, Tim, Vodafone, stanno cercando di adeguarsi alle nuove, quando arriverà l'iPhone 5, o non so, le reti, si staranno, qualcosa si dovrà, e in questo momento c'era un attimo di assestamento, anche perché a me il 3G mi dava dei problemi, si collegava, si scollegava, si collegava, trovava e lì la batteria per due Potrebbe giorni benissimo se essere l'è un problema, mangiata certo, proprio. ma il problema potrebbe più che altro, adesso esce un momento lo sviluppatore che è in me, Certo. il problema potrebbe benissimo essere collegato a come viene gestita la connessione, alla frequenza, con cui viene fatto il check sulla connessione, alla modalità di stand-by, comunque sia di quello che è il modulo 3G. Come viene gestita, perché comunque ricordiamoci che il modulo 3G è un modulo di comunicazione e come tale richiede parecchia energia. Non escludo proprio per nessun motivo che possa essere un problema di software, io, più che un problema di Ma rete. può darsi che prima io non ho mai avuto un problema del genere, solo l'ho avuto solo col Appunto, quindi quindi nel tuo magari caso, analizziamo il tuo caso, sei già la terza persona che mi segnala questa cosa, il modulo 3G è sempre quello, perché il telefono è certo, una sì. costante, cosa è cambiato? Il software, il che Certo. fa pensare che ci sia, ma possiamo definirlo più che, non lo definirei un bug, io, non è un bug, No, ci no. può essere una Un questione di cambiamento, mancata, dici? ottimizza no, mancata ottimizzazione di quelli che sono gli algoritmi di gestione del 3G. Che conseguentemente, come side effect, hanno un aumento dei consumi. Sì. La cosa strana che però mi fa pensare è che ora si è un attimino stabilizzato. Ora non ti dico che è tornato ai livelli di prima, però insomma, a parte l'ho ricaricato, e quindi vabbè, non fa poco testo. Però io oggi sono andato a correre, quindi l'ho utilizzato anche. Prima che sono uscito dal lavoro, da stamattina 100% alle 8, quindi varie Twitter, mail, Facebook, eccetera. Sono andato alle 6:30, sono uscito dal lavoro, sono andato a correre. Lo uso come tracking della corsa, quindi Certo. insomma, con GPS sempre acceso perché fa tutto il tracking, quindi con la musica sotto, col display sempre acceso. Sono tornato a casa dopo mezz'ora di corsa e era al 39. Quindi si era un attimino stabilizzato Sì, però rispetto comunque sia, ai ricordiamoci, primi giorni di uscita. Qui certo, ma qua possiamo aprire non so se ora, però il software quello è rimasto. Io non so se c'è stato un adeguamento nel senso da parte di team di Vodafone che si stanno adeguando, che tanto potrebbe arrivano ormai anche essere. alle reti LTE che dovrebbero essere sul. Che, a parte che tanto qui non ci saranno mai, però. No. Magari, non lo so, un adeguamento di qualcosa, non lo so. Potrebbe anche essere, purtroppo non abbiamo abbastanza elementi per capirlo. Certo. Io sul Resta il discorso fatto. batterie te l'ho già detto, te l'ho accennato e adesso vorrei parlare un attimo, sono perplesso, nel senso che io ho, diciamo, abbastanza anni per aver assistito all'evoluzione di quelli che sono i cellulari. Siamo in due, anche perché sono più grande, dici. Tu sei più vecchio di me, ma io ho fatto in tempo a vedere mio papà col telefonino con la valigetta, Eh beh. che lo ricaricava nel bagagliaio della macchina. Quindi guarda, le ho Però visti proprio tutti, la cabina era praticamente. io ho l'onore sempre di sentire mia nonna che mi chiama, 86 anni, mi chiama e mi dice: ma non mi va più come pet. Ma che è? No, mi dura più la batteria. Prima durava una settimana, ora mi dura 5 giorni, 6. Esatto, Cioè, 5 giorni 6 per me, per chiunque oggi ha uno smartphone. Io mi ricordo il Nokia, il mitico Nokia 3310, che chiunque, sfido chiunque a mandarmi una mail e dire che non l'ha avuto. Io non l'ho avuto. Ma c'è, Io non l'ho io non avuto. ti chiamo più. Io Basta. ero all'epoca, se ti ricordi, all'epoca c'era una divisione netta, no? Un po' come quella che c'è adesso, la divisione, diciamo, tra Apple e Samsung. All'epoca c'era Nokia, Ericsson. Che Sony Ericsson, quale ce l'avevi di Io Sony? ero sul versante Ericsson ed ero il felicissimo, e ho tuttora tra l'altro, ero il felicissimo possessore di un Ericsson T28S, che era quello ultra Bello, bello, sensibile con il bello, bello flip, questo. sì, Bello, molto bello, bello, bello. e la Con il batteria mi flip, apertura durava una flip. settimana. Eh sì. Però diciamo che una volta messaggi, telefono, stop, fine. Beh, oddio, io ricordo, e adesso se. Snake per chi aveva Esatto, il adesso se 3310. Gianni, che è il mio ex professore di fisica del liceo, nonché mio attuale chitarrista, ascolterà il podcast, mi picchierà. Io ricordo parecchie lezioni di fisica giocando a Snake. Eh beh, Snake è stato veramente devastante. Sì, E però lì le adesso. batterie erano tutta un. Diciamo che anche il dispositivo del device era tutta un'altra cosa. Ma Cioè, le oggi avere. batterie concettualmente non hanno subito la stessa evoluzione che hanno subito i terminali, cioè io ci ho riflettuto sopra e ho notato questa cosa. I produttori, parlo in generale, parlo dal produttore del computer, per cui posso tirare in ballo anche HP per intendersi, su computer portatili, piuttosto che i produttori di cellulari, eccetera, eccetera, si sono concentrati su un aumento della potenza lavorativa, un aumento della capacità di memorizzazione, un aumento di quella che sono le caratteristiche hardware, quindi facendo menzione a quello che abbiamo detto prima, numero di core grafici, CPU, schermi sempre più grandi, sempre più definiti. Abbiamo un mini computer in tasca, Ma io direi alla più che fine, un mini computer. forse anche di più. Esatto, più che un mini computer. Però il problema qual è? Che si sono concentrati sull'aggiunta di queste funzionalità, impiegando, supponiamo, per quella che è stata la mia sensazione, che poi per carità sarà smentita fra 5 secondi sicuramente, l'80% delle loro risorse, e il 20% è stato dedicato allo sviluppo della tecnologia delle batterie. Arrivando a quale conseguenza? Che una volta il telefonino, la batteria era dimensionata in modo tale da far durare la carica una settimana. Con un uso intensivo, io mi ricordo mio padre che fa l'agente di commercio, e quando sono usciti i cellulari per lui è stato un cambio di vita veramente, perché era in giro con i pacchi di gettoni prima, gli durava, e lui lo usava tanto, parlo di ore al giorno, gli durava 3 giorni una batteria ed era già buono. Ma Adesso, infatti, se una batteria arrivi a fine giornata, c'è da esserne felici. Quindi sì. vuol Infatti, dire che l'attuale tecnologia delle batterie, almeno dal mio punto di vista, non è dimensionata adeguatamente per sopportare e supportare quelle che sono le potenzialità del terminale. più che altro, secondo me, non riescono a inventare una cosa, una batteria talmente piccola che vada in un iPhone, un Galaxy S3, che possa reggere tutta Non sono d'accordo. questa cosa. Secondo me perché ovviamente la durata, che poi entriamo nel processo chimico della batteria col fatto degli ioni di litio, eccetera, È proprio eccetera. questo il problema. È l'uso delle batterie agli ioni di litio, che sono una tecnologia ormai desueta. Anche qui esce un momento un'altra delle mie personalità multiple, che è il modellista. Io ho modellini di elicotteri radiocomandati. La tecnologia migliore per le batterie allo stato attuale non è quella agli ioni di litio, ma è quella ai polimeri di litio, le cosiddette batterie lipo. Le batterie lipo io qua tranquillamente, e si possono acquistare batterie lipo da svariate migliaia di miliampere ora. Sì. Che Io ora presumo che siano tranquillamente delle durate nell'ordine di almeno un paio di giorni. Io presumo che siano state fatte delle scelte accurate, presumo siano state messe. Però attento, io su questo sono un po' in disaccordo, che non parte, ripeto, che ne facciamo un utilizzo veramente, ti ripeto, una volta 3310, telefono, SMS e cosa, basta, fine. Snake e via per là. Bravo, e Snake, giusto, proprio. Ora è un E cioè, se se vogliamo fare proviamo, un rapporto tra io telefono, SMS e Snake, era 10%, 40%, 50% su Bravo, Snake. bravo, io bravo, bravo. Io sfido chiunque oggi a tenere che oggi tutti hanno uno smartphone, ormai il classico telefono ce l'hanno in pochissimi il Certo. telefono. A dire io sto un giorno senza telefono, 2 giorni, ora un giorno magari ci può anche stare, 2 giorni. Cioè oggi siamo dipendenti dal telefono, ma neanche poi dal telefono in sé. No, Sei siamo dipendenti dipendente dall'oggetto che ti da permette di interfacciarti con il mondo social, perché oggi va tutto sul social. quello che c'è. Vabbè, sì, chiaramente. Ma Quindi nel senso ripeto, l'utilizzo massiccio sono che ne d'accordo. facciamo. Il problema è che la tecnologia su questo sono d'accordo. Io lo vedo in modo diverso. La tecnologia delle batterie è stata sottovalutata e trascurata. Secondo me è stata un po' tralasciata, cioè non è Certo. andato di pari passo. Ma perché? Io, come solito, sono malizioso. Dovrei abituarti a questa mia malizia. No, ma anche perché se si va avanti Non così, porta vedi. soldi. La tecnologia delle batterie non porta soldi. Però. Non gliene frega niente di avere un cellulare. Se tu vai da un utente e dici: guarda, io ti do questo cellulare che ha le funzionalità standard, ma hai una batteria che ti dura, sparo, 4 giorni. Oppure vai dall'utente, allora fissiamo il prezzo e gli dici: questo telefonino qua ha una valangata di funzionalità in più, ma la batteria ti dura 6 ore. Ti compreranno quello con la batteria a 6 ore. Certo, però secondo me stiamo Perché arrivati anche a un porta momento di. soldi, il problema è quello il discorso. Quindi Tipo hanno una. trascurato completamente l'evoluzione delle batterie. Sì, appunto quello che dico. Però secondo me stiamo arrivando a un momento che tira, tira l'elastico, poi si schianta. Nel senso, ora ti arriviamo a dei device che durano. Ci arrivi dalla sera alla mattina, bene o male. Ci arrivi, dai, parliamoci chiaro: 29, ci arrivi a Dipende dall'uso casa. che ne fai. Io a volte ho avuto Sì, la vabbè, quello necessità di anch'io. doverlo ricaricare a metà Ma giornata. certo, quello anche succede delle volte, però parliamoci chiaro, su 10 volte può succedere una volta, non di più, dai, Sicuro. nella media totale. Quando arriveremo all'iPhone Parliamo del 8, 10-20%. certo, però se si, ora ti ho fatto un 10, facciamo anche 100, può succedere 2 volte. Prendi l'iPhone 7, il Galaxy S10 e il telefono mi dura, alle 8 lo porto, accendo, lo stacco dalla carica, vado al lavoro, alle 11 e a 40, a mezzogiorno e scarico, arriva un punto che l'utente dice no, a questo punto c'è, cioè, non è che posso, anche perché io torno a casa, te resti a lavoro, quello che è sempre in giro per lavoro dice, cioè o Il mi compro, limite è la giornata. bravo, se, infatti quello dicevo, secondo me siamo arrivati al limite. Cioè, più di questo, secondo me, Anche non perché in si può. alcuni Certo, casi l'hanno, come abbiamo già detto, l'hanno anche valicato abbondantemente. perché quella volta su 10 o su 100 il limite lo strafuori. Però Però ho ora un uno dice una collega che volta. ha uno smartphone, adesso non voglio dire la marca per non fare pubblicità negativa, ha pagato 500 e fischia euro che gli dura, l'ha tenuto 3 mesi perché la batteria lui non arrivava a fine giornata. Io quando dicevo dell'iPhone, che volevo prendere l'iPhone, che io. Poi racconto la mia storia, ora non è il caso delle mie scelte tecnologiche. E non dura la batteria. Non dura, era una cosa che un po' mi fermava rispetto a che io prima avevo un altro sistema operativo. E però poi ho provato, ci arrivo tranquillamente alla giornata, ripeto, su 25-30 ci arrivo senza problemi. Però siamo. Quasi, secondo me, Certo. al limite, io non so l'iPhone 5, anche qui dicono che la batteria, a chi l'ha provato, quindi messa a confronto con 4S, dura leggermente di più, non di meno, questo dicono, poi Sì, andrebbe io ho provato. visto delle statistiche che dicono che sulla media la durata è incrementata del 5-10%, Ora bisogna cioè vedere quasi se, invariata. ora sì, però bisogna vedere se è aumentata grazie al telefono che sfrutta meglio la batteria o se grazie alla batteria che. No, secondo me è diverso, è stata aumentata grazie al fatto che evidentemente hanno ottimizzato alcuni processi che girano in background sul sistema andando a consumare meno. Semplicemente questo. Quindi è un pro del software. È un pro del software ed è un, che come dico io, un meglio male la per quanto riguarda il discorso batteria. Che sfrutta meglio la batteria. Certo, certo. Ma quando sei in ambienti embedded o comunque sei in ambienti con alimentazione a batteria, l'ottimizzazione del software e la limatura al singolo ciclo macchina è obbligatoria se si vuole avere delle durate decenti. Calcoliamo anche questo. Io una cosa su cui mi ero soffermato a ragionare con un amico sviluppatore di applicazioni per iOS è questa. Arriviamo entrambi dalla programmazione dei microprocessori e microcontrollori, quindi parliamo di linguaggio assembler. Lui giustamente mi faceva notare questa cosa. La programmazione su iOS è giustamente, siamo nel 2012 e non nel 1982, ad alto livello, quindi con istruzioni di alto livello. Il problema qual è? Che istruzioni di alto livello, aumentando quello che è il livello di astrazione che ha l'utente verso la macchina, hanno come side effect chiaramente una riduzione di quella che è l'ottimizzazione. Tradotto in altri termini, solo Apple può scrivere programmi altamente ottimizzati per iOS. Perché è l'unica che potrebbe bypassare, oppure in alternativa che conosce talmente bene quelle che sono le istruzioni. Certo, ma infatti la differenza è che questo confermo quello che ho detto, se provi un'applicazione magari di terze parti, un giochino, ci sono delle applicazioni che la batteria veramente la devastano. La distruggono. La devastano proprio. Esatto. E qui allora, secondo me, forse ancora la teoria che hai detto giustamente, che magari è un discorso, cioè un discorso di migliorie software sul fatto della... Questo sicuramente, però volendo aprire lo sviluppo a terze parti, chiaramente devi rinunciare a parte dell'ottimizzazione. E quindi devi far fronte con la batteria. Certo, e quindi si ricollega al fatto che secondo me se una ditta come Apple si cerca di ottimizzare il software per ottimizzare la durata della batteria, vuol dire che secondo me a livello di batteria siamo proprio al limite. Che siamo, sia iPhone, siamo assolutamente sia, al limite. Siamo sì. al limite, perché se io personalmente dovessi prendere un device che mi dice guarda dura mezza giornata, no, assolutamente. Cioè, no. Io almeno un giorno ce lo devo fare. Io adesso faccio quelle che i miei amici poi e colleghi ripeto, dicono che faccio l'oracolo, perché normalmente ci indovino. A breve mi aspetto un rilascio pesante, di un aggiornamento molto pesante di quello che è l'SDK per iOS, non è che introdurrà un preprocessore. Non è difficile, anche perché cioè, arrivi a un punto che non cioè, poi è anche tutto molto astratto, perché io magari mi dura mezza giornata, faccio tre telefonate e Facebook, magari a te ti dura 3 ore perché ci fai 800 telefonate. Giustamente va rapportato a quello che è l'utilizzo. Va fatta comunque una media. Cioè, certo, si fa sempre un uso medio, questo è ovvio. Cioè, per un uso medio bisogna che la sera ci arrivi tranquillamente a sera. Col telefono quantomeno. L'unica che non ci arriva è la mia moglie, che lei veramente... e continua, anzi... non posso dare la mail pubblica perché non è il caso. Se continuate magari anche te su Facebook glielo dici di non far spengere. Lei, io da quando gli ho regalato l'iPhone, gli guarda, non lo fa spengere perché non gli fa bene le batterie. No, assolutamente. Puntualmente prendo lo pigio su, tac, è spento. E si spegne. Ma è perché se scarico era spento, ma c'è sempre le giustificazioni. Vabbè, questo tanto uno sente, speriamo. Teoricamente le batterie agli ioni di litio non dovrebbero mai scendere sotto il 10%. Bravo, io gli faccio fare, ma liberamente, una volta si spense tipo al 5-6%, buon si spense, e ci sono le guide praticamente di tenerlo spento, farlo spegnere, tenerlo spento tipo 5-6-7 ore, farlo ricaricare completamente, si riallinea la batteria, ma una volta ogni 3-4 mesi. Sì, beh, chiaro, non è un'operazione quotidiana, anche perché altrimenti siamo rimasti noi col classico noi, quelli di oggi, giovani, no, giovani intendo 16, 17, 20, noi dai 30 in su. Ah, io sono appena entrato nei 30. Allora facciamo da 28 aspetto del mio aspetto e della mia voce, ho 31 anni. Vabbè, è uguale, allora facciamo da 30 in su, siamo rimasti col classico, prendo il telefono nuovo. Allora, la prima cosa mettilo, la prima carica, 8 ore in carica, 24 ore, sì. Mi ricordo, 12 ore in carica senza mai staccare o non lo usare. Poi quando devi caricare, quando si spenge completamente, non ricaricare mai prima. Ma questo è mutuato dalle vecchie batterie nickel cadmio. E te eri lì, no, c'ho il 7%, lo devo far scaricare, giochiamo a Snake, così si scarica. Esatto, per fortuna adesso questo non avviene più. Ma torno a ripetere, qual è il contrario? Che mi aspetto e spero i produttori capiranno che devono allineare la tecnologia delle batterie e introdurranno finalmente delle tecnologie di batterie che ci sono già, vanno semplicemente mutuate da altri ambiti. Secondo me ci vuole uno sviluppo totale, nel senso da varie ditte che smettono di fare. Ci sono guerra, già le tecnologie su batterie di grossa, diciamo con capacità sicuramente più sviluppata di quella che attualmente è la tecnologia dei cellulari, semplicemente non è stata integrata. Semplicemente questo, non l'hanno proprio considerato, perché, ritorno a ripetere, io sarò maligno, ma è uno sviluppo che non porta soldi diretti. Ma infatti dovrebbero farlo, secondo me, senza farsi guerra sempre, le grandi ditte, compagnie, sia Samsung, Apple, smettere di farsi guerra per le cazzate. Anche qui potremmo aprire un dibattito che poi magari una sera la faremo. Qua ci facciamo su una puntata apposta. Bravo, faremo una puntata apposta, che io sono contro queste cose. Idem. Ce la segniamo, ci facciamo una puntata apposta. Volentieri. E trovare una soluzione per gratificare quello che a te ti dà i soldi. Come la dà Apple e come la dà Samsung, l'utente finale. Certo, sono d'accordo. Te non devi fare altro, devi stupire me, utente finale. No, stupire, fare i soldi, devi stupire me. Quindi c'è un telefono che dura 3 giorni a batteria, lo comprano in 7.000 milioni di miliardi. Non lo so, perché noi siamo comunque utenti tendenzialmente smaliziati, quindi siamo attenti al dettaglio. No, facessero un iPhone 6 che la batteria, solite caratteristiche, la batteria dura 2 giorni pieni, te ci fai 2 giorni, vorrei vedere il... Non credo che ci sarebbe un aumento delle vendite significativo. No, ma no, significativo qualcosa no. Sì, ma non significativo. Però a di contro un telefono di pari che ti dura un giorno, uno che ti dura due, qui vorrei poi vedere, vorrei ripeto vedere. La mia idea è questa: la tecnologia delle batterie sui cellulari subirà un'evoluzione non quando servirà agli utenti, ma quando servirà al produttore del cellulare. Beh, certo, perché ti ripeto, finora siamo... Hanno tirato la corda, come bravo, finché hanno potuto. Esatto. Ora cercano di... perché siamo proprio al limite, quindi cercano addirittura ora di ottimizzare. Si stanno rosicchiando i cicli macchina, mi sembra di essere tornato al periodo in cui per i miei progettini di elettronica programmavo le PIC a 8 bit, le 16F84A, uguale. Praticamente rosicchiavo l'istruzione assembly all'osso, perché altrimenti mi consumava troppo. Peccato, si sta adeguando, cioè io adeguo il software, io ti faccio un assurdo, io via che adeguo il software per la batteria. Esatto. Lo puoi fare adesso, ma fra poco dovrei fare batteria. Anche perché torno come produttore, già che tutto adeghi te alle mie esigenze. Certo, anche perché torno a ripetere, l'ottimizzazione la puoi fare tu produttore, ma nell'istante in cui tu offri un SDK, bravo, non puoi fare l'ottimizzazione, a meno che, torno a ripetere, rifaccio l'oracolo nuovamente, quella cosa che mi aspetto, a breve uscirà un preprocessore. Per chi non è un programmatore, spiego brevemente, un preprocessore è un pezzo di un programma che guarda le istruzioni che tu hai scritto per il tuo programma e le ottimizza, le rende efficienti, più efficienti. Senza io a breve mi aspetto un preprocessore nell'SDK per iOS. Secondo me, ma anche su ma non solo, per Android. Sia chiaro, prima che mi si taccia di essere partigiano. No, vabbè, accordo. Solo per iOS, per Android. Cioè, a breve io prevedo l'introduzione di questa cosa, prima ancora di andare a mettere mano alla tecnologia delle batterie. Quando non è difficile. Staremo a vedere, faremo puntate anche lì. Seguiremo sempre se qualcuno ci ascolterà. Beh, esatto. Che poi mi permetto di fare una giaculatoria, se... ovviamente gli argomenti, noi adesso stiamo intanto che stiamo chiacchierando, ci stiamo appuntando, ma se qualcuno li vuole proporre, mi piace giaculatoria, me lo scrivo. È piaciuta? Sì, mi piace, me lo scrivo. Se qualcuno vuole proporre, ben venga. Infatti questa sarà una novità che volevo proporre. Ora vediamo un attimo di assestarci un attimino fra noi collaboratori, assestare l'asset di bravo, cioè, mi piacerebbe fare che un podcast che, diciamo, ormai stasera concludiamo qui la puntata. Un podcast su, anche qualcuno ci propone un argomento e volendo, magari insieme, tipo esempio stasera io, Alberto e una terza persona, chi ci ascolta che vuole partecipare, dice anche io voglio dire la mia, partecipo, e si fa. È una cosa innovativa, cioè sono non solo io e lui, io e altri che poi arriveranno. Quindi vengo anch'io, chi sia, chi vuole partecipare, e si fa, facciamo una discussione a 3, a 4, quanto sia. Ma ben volentieri, per quanto cosa ne pensi? L'avevamo già parlato anche io, te, era sì, sì, una bella idea. Sono proprio ben disposto, anzi io come... Per avere varie idee da contraddittorio, per cui... Sì, argomenti che magari verranno comunicati prima, quindi uno un attimino si giustamente si documenta un attimino, poi ci sentiamo tramite Skype, tramite mail, che poi dopo darò la mail anche che ho Mattia, che hai approntato, sì, perché lasciamo perdere, hai seguito le vicissitudini per nome, per trovare il nome, la mail, era occupato. Guarda, lasciamo perdere. E quindi uno ci propone un argomento e magari se dice vorrei partecipare anch'io a parlare con me, ben venga. Perché no? Ben volentieri, anzi. Più voci ci sono, meglio è. Tanto la chiacchierata, così. Anch'io stasera è stata la prima, c'è voluto un po' da rompere il ghiaccio, perché... Vabbè, ma dover rompere il ghiaccio è normale. Anch'io non dico che è la prima, ma dopo un anno e mezzo quasi di stop dal microfono, un momentino di, diciamo, di ruggine dagli ingranaggi ho dovuto toglierla. Dai. Va bene, via. Ce l'abbiamo fatta, siamo riusciti a registrare la prima puntata. Speriamo che chi la scarica e l'ascolta sia arrivato fin qui, soprattutto, e che l'abbia trovata interessante. Certo. Come è stata interessante per noi questa chiacchierata. Bravo, sì. E comunque accetteremo consigli e critiche, quanto venga, per migliorare, non il classico discorso, perché proprio essendo il primo che faccio, quindi io mi avvalgo poi della collaborazione di Alberto e altri, ripeto, che poi... parteciperanno, qualsiasi tipo di commento o critica, senza offese magari, grazie. Sì, gli altri insulti magari. Sarà bene accetta per migliorare e per dire allora, meglio fa così, meglio fa cosà, e per migliorarsi. Tanto, non fanno mai male, anzi, le critiche costruttive sono sempre ben accette. Certo, certo. Bene, quindi siamo arrivati alla fine della puntata, io vi saluto a chi ci ascolta, speriamo, io sono Riccardo Grassi e vi saluto. Alberto Armida, vi saluto e fate i bravi. Alla prossima, mi sono dimenticato l'email, ve la darò la prossima puntata. Ciao a tutti. Ciao.